chi è avanti? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Boh, prima mettete la portante e poi non rispondete quando vi chiamano. Va bene così. Mamma da passare, fallito.